nostro giudice è stato ammazzato. Gli sciacalli sono là, urlano sfida allo Stato. Quella indignazione, fottuto disgusto, qualcosa di già visto, è sangue di Cristo. Questa nuova ipocrisia sulle spalle della gente che lavora tutta la vita e dopo muore non sa niente. Mi rischiara la mente e sale prepotente un odio dritto nel cuore, gela il sangue nelle vene. Penso al 12 dicembre 69, lo stato delle stragi, sì, lo stato delle trame. E non ridono più tutti quei morti ammazzati dai proiettili vaganti e dagli sbirri infiltrati. E mentre sono in una piazza circondato dalla gente, sento dentro di me cosa deve essere il niente. Mi assale prepotente un assordante rumore, sempre più distintamente sento battere un cuore. Ma mi sfugge il suo corpo, è sfocato il suo sorriso. Auro è vivo nel mio cuore, ma l'hanno ucciso in quest'Italia, bastarda di galere, fritti misti, dove sei uno di loro oppure non esisti. Joe, basta. 1991, lo spettacolo è finito, ma nel vento io sento il dolore lancinante di una madre claudicante che cerca suo figlio, una speranza, un appiglio. Ma è notte profonda laggiù in Medio Oriente, c'è un silenzio di tomba, nessuno sa niente. Grida uomo in Palestina, è ininfluente, non ha orecchie l'Occidente, non sente il dolore di una terra stuprata dagli anfibi della NATO. E riecheggia ancora nella grande vallata il volato di una spada ed una freccia spezzata. Insegna la dignità di una vita stroncata che nessun invasore ha mai visto piegata. Ed è fiero lo sguardo del mio fratello africano, con la sua terra nel cuore e quella zappa in mano. Ma il sole è così forte che risplende la notte. Io odio perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. E mi appartengono i morti nelle stragi di Stato, assassinati perché c'ho un passato. Non vengo da nulla, oggi come ieri, guerriglieri in cella e bombe e galere. La storia è sempre quella e non è cambiato niente. E mi appartiene la lotta della gente contro quella mente che la spara apertamente, qua mi ammazza. Vivo putrefatto e contento, sono solo uno zero in un assegno circolare. Per i miei padroni sono il prezzo da pagare, sono la garanzia che c'è la democrazia. Ma vogliono che io stia nella mia bella corsia, che se si accende la spia arriva la polizia e poi mi sparano a vista. Sono un fottuto terrorista e la mia vita vale meno di una busta vuota trascinata dal vento in una strada desolata. Io odio perché sfruttati si nasce, magari ci si diventa, però non lo si inventa. Io odio, è un fatto di appartenenza. E tutti quei fottuti sorrisi beffardi, dico migliaia di miliardi spesi in carceri speciali, fottuti maiali, bastardi a caccia il giorno e la notte. Ricordo quelle botte che fanno molto male all'orgoglio, alla dignità di un uomo negata da un foglio. Capi d'accusa tutti ancora da provare, e qualcuno per favore mi spieghi perché. Giocare con me, e il mio futuro è un presente senza troppi perché, e la fottuta realtà è proprio quello che siamo, non lo scegliamo, attente sopravvivere.